Abbiamo al telefono un Camontigre. Ciao, come va? È uscito Habitat ieri, come ti senti? Ciao, innanzitutto grazie per averci voluto con voi. Dai, mi sento felice, anche da un certo punto di vista alleggerito, no? Sai, quando c'è l'uscita di un disco, poi si accumulano un po' cose da fare. E una volta che è andato è stato un gran sollievo. Immagino. Ecco, l'ho ascoltato tutta la settimana, un disco ben fatto, spazia in vari territori sonori, da quello latinoamericano a quello africano, e ti chiedevo se c'era un filo conduttore che unisce il vostro terzo album, se non sbaglio. Allora, no, Habitat in realtà è il quarto. Allora ho letto male, album. Ho tenuto male i conti. No, perché sai, è stato molto vicino rispetto a Scenario che abbiamo pubblicato nel 2022, e in realtà poi noi non siamo così abituati a produrre con tempi stretti, ci prendiamo dei tempi molto larghi, però devo dire che questa cosa ci ha fatto un gran bene, perché poi richiede di avere una concentrazione più tesa e più mirata. E c'è sicuramente un nesso, diciamo, Habitat potrei definirlo come una tappa di un viaggio. Camontigre lo abbiamo sempre definito come un collettivo, un qualcosa di molto aperto alla condivisione, quindi è la scoperta di posti e spazi e sonorità diverse. E quindi ogni volta cerchiamo, ci viene abbastanza naturale allargare il raggio delle influenze, degli ascolti, ed è assolutamente coerente poi con l'altra sonorità, perché come anticipavi tu, questa commissione di sonorità sudamericane, più brasiliane nello specifico, e africane, sì, ha comunque anche una connessione proprio storica. Molti degli strumenti africani che venivano dal continente africano poi sono legati, sono stati portati, hanno la stessa matrice degli strumenti sudamericani, alcune musiche tradizionali sono condivise, per cui alla fine c'è sempre un filo che unisce punti anche molto distanti tra loro. Ho capito. Ecco, ad esempio, in un negozio di dischi sarebbe difficile, vabbè, in Italia magari in mezzo al classico scompartimento tra gli italiani, però magari all'estero per me finirebbe nel reparto world music. Musicalmente Habitat rispecchia la vostra visione sul mondo attuale che avete, oppure più riferito, diciamo, a un'esperienza già vissuta in passato? È uno specchio di questa nostra realtà? Ma sì, un po' e un po', nel senso che già nel titolo Habitat è l'idea che abbiamo avuto in testa di immaginarci questo cosmo, insomma, questo microcosmo, questo spazio confortevole, dove si stesse bene, un vero e proprio habitat dove forme diverse convivono e c'è sempre questa commistione, questa crescita continua, insomma, come un organismo che funziona. E diciamo che quindi sì, è molto legato a quella che è l'attualità, quelli che sono i nostri ascolti, come dicevo, a un'evoluzione che abbiamo avuto musicale, cioè da determinate sonorità poi ci siamo spinti, non so, anche per gusto probabilmente, per scelta, verso quei territori, e ha anche un legame col passato, perché poi molte influenze vengono anche dalla musica tradizionale, ad esempio brasiliana, quindi comunque artisti. E infatti stavo leggendo le collaborazioni, leggevo un po' le collaborazioni anche che probabilmente avete voluto anche per questo vostro, diciamo, il concetto che stai dicendo adesso, da, oddio, qual nome, Seun Kuti? Sean Cooty, sì. Sì, Sean Cooty in The Botanist, Xenia Franza in Teenage Kingdom, il nostro Giovanni Truppi e Arto Lindsay. Ci dici un po' come sono nate questi featuring? Ma guarda, ad esempio, proprio per quello che stavo ricollegandomi a quello che dicevo prima, infatti, ne so, tra le ispirazioni della musica sudamericana c'è Chico Barche, che ne so, però comunque anche, anche artisti come Xenia Franza, con la quale appunto abbiamo collaborato in questa traccia, e è stato davvero molto bello, perché è una collaborazione in cui lei ha dato molto, e questo insomma ci ha colpito, perché sai, le collaborazioni migliori sono quelle in cui riesci ad arrivare in fondo un po', anche ad avere un po' di tempo per conoscerti, per entrare ognuno nel mondo dell'altro, non sempre è così facile, e lei quindi rispecchia un po' questa idea di contemporaneità rispetto alla musica sudamericana. Sì. Arto Lismi, ad esempio, è per noi una figura di riferimento assoluta per quella che è la musica più sperimentale, e comunque anche lui ha radici statunitensi ma brasiliane. Sì. Il nostro Giovanni Truppi, che diciamo è una canzone particolare che si discosta un po', l'ascoltavo stamattina, si discosta un po' da tutto quello che è il resto di Habitat. Sì, allora l'idea iniziale di Habitat, uno degli spunti iniziali, che fosse un disco appunto in quanto Habitat molto ampio e multilingue, quindi che si staccasse un po' dall'inglese, col quale abbiamo principalmente sempre cantato, scritto, e che avesse diversi idiomi. Quindi ci siamo mossi sul portoghese con le collaborazioni, su Scenario, il disco precedente, avevamo cominciato con il francese, lo spagnolo, e avevamo in mente ovviamente l'italiano, perché era una cosa molto molto molto interessante, ci incuriosisce da sempre un po' l'idea di confrontare la nostra musica con la lingua italiana, e chi meglio di Giovanni nella nostra idea poteva scrivere sulla nostra musica. Poi Giovanni lo conosciamo da tanto, condividiamo uno spazio a Bologna con lui, e quindi è davvero un amico. È stato come buttarla là sul tavolo, è una cosa che ha coinvolto anche lui in maniera sperimentale, non era abituato a scrivere su musica altrui, ed è venuta fuori una traccia diversa col suo carattere. Bello. Diciamo così. Sì, l'album è nettamente funkeggiante, con un aspetto diciamo un po' retro, dato dai numerosi coretti che ricordano un po' la musica anni 70. È un effetto che avete voluto, pure un vostro marchio di fabbrica, o è stata una cosa spontanea? Ma credo che sia ormai una... adesso che mi ci fai pensare, credo sia proprio una cosa di gusto nostro. Sentiamo, ci piace quel tipo di timbrica che suona un po' mediosa, che si fa appunto al funk, alla musica anni 70, e un po' lo fai. Adesso penso ad esempio alle batterie di Drumatrix, che sono questo collettivo di musicisti californiani. Che loro appunto hanno proprio questo marchio di fabbrica, praticamente i loro strumenti hanno questo suono molto sporco, anni 70, registrano ancora su nastro con un microfono solo, e ci piace, direi che non c'è troppo ragionamento, scelta prima, ci viene abbastanza naturale. Se sentiamo qualcosa di aperto sulle frequenze alte, tendiamo a tagliarlo, quindi... Ok, ecco, io l'ammetto, non sono, per mea culpa, impegni personali, non sono mai riuscito a vedervi dal vivo, ma spero ci sia l'occasione presto. come pensate di trasporre il vostro habitat dal vivo, sia come scenografia, come strumentazione, i featuring, come sarà lo spettacolo dal vivo? Guarda, la risposta più sincera che posso darti è che ancora dobbiamo lavorarci, dobbiamo metterci in mano, abbiamo alcune idee e sicuramente di collaborare con i musicisti con cui suoniamo ormai dall'inizio dal vivo, i quali hanno dato moltissimo anche in questo disco, è stato un disco anche molto partecipativo con loro. Mi piace sempre nominarli perché davvero siamo dei privilegiati a poter suonare e condividere la musica con loro, che sono Pasquale, Mirra, Beppe Scardino, Mirko Cisilino e Marco Trattini. Sì. Ecco, un'altra cosa che facevo un po' un discorso della world music, che forse sta diventando il genere più trasgressivo per quel che riguarda la nostra società, che tende sempre un po' a chiuderci dentro a spazi social, a bolle o proprio nelle nostre case. Avete mai pensato alla vostra musica come una forma di ribellione dall'algoritmo, dagli opinionisti, dai media un po' truccati, una visione un po' punk world music, se vogliamo? Ma sì, guarda, delle volte ti ritrovi tuo malgrado, nel senso che magari anche condividendo ovviamente delle idee, delle posizioni, però non è quello il tuo obiettivo. Noi facciamo le cose che crediamo sia giusto fare, cioè quando parliamo di, non so, facendo un esempio di condivisione, di apertura, di scambio, per me è una cosa così vitale, basilare, che Montigre proprio pone le fondamenta sulla mescolanza, sulla realtà delle cose, sulla condivisione artistica, proprio cercare di entrare ognuno nel mondo dell'altro. Ci sono dei periodi magari storici in cui questo diventa controcorrente, forse. Controcorrente, esatto, non mi viene una parola. E quindi sì, cioè, ci muoviamo in una normalità, cioè che in un mondo, in un fare che a noi sembra molto, molto logico e strano che delle volte mi debba dire che insomma sia ecco normale aprire o penso, condividere. Penso anch'io. Ultima domanda: l'album è uscito ieri, avete un obiettivo, vi siete posto un obiettivo, avete delle aspettative per questo habitat, c'è una data bolognese? Sono varie. Allora, un'ultima domanda, che sono varie domande, però. Sì, allora parto dal fondo. Ci sarà una data bolognese e comunicheremo a breve. Bene. Le date del tour che faremo ad anno nuovo. E, tanti obiettivi sono legati all'uscita di un disco, anche di idee, di traguardi in qualche modo. Uno importante, mi sento sicuramente di dire, che è quello di poterlo portare in giro il più possibile. Sarebbe bello riuscire a portarlo in Italia, fuori dall'Italia, insomma suonare e riprendere quel tipo di contatto che ha avuto qualche anno fa, una battuta d'arresto, e col quale stiamo riprendendo confidenza piano piano. Quindi sarebbe bello proprio riuscire a portarlo in giro il più possibile.